sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Noi possiamo avere l'atteggiamento di disprezzo assoluto verso la tecnologia, possiamo dire che noi non abbiamo alcun rapporto felice né sinuoso né lussurioso con le macchine, possiamo dire che possiamo fare a meno anche di tutte le macchine, facciamo tutto bene con i nostri antichi mezzi umani, ma dicendo questo illudiamo noi stessi e prendiamo in giro il nostro prossimo. Tutta l'evoluzione dell'essere umano è dovuta, determinata, favorita, accelerata da alcune macchine. Esiste la possibilità di classificare delle macchine che hanno rappresentato delle pietre miliari che hanno trasformato l'uomo sapiens sapiens da quello che era ai primordi della sua evoluzione in quello che siamo noi. Oggi abbiamo un grande privilegio, oggi abbiamo possibilità di assistere coscientemente alla nostra evoluzione. Noi ci rendiamo conto, noi cinquantenni, la nostra generazione di mezzo, la generazione che ormai si presta e si a dare il testimone a quelle più recenti, di aver vissuto un momento straordinario e forse unico nella storia dell'umanità, in cui è possibile percepire fisicamente, razionalmente il proprio cammino evolutivo. Chi come me fa il giornalista ha visto i giornali fatti ancora con la composizione a piombo e oggi probabilmente può mandare un articolo semplicemente digitandolo dal proprio palmare. Quindi nel giro di un paio di decenni ha visto un'evoluzione straordinaria delle proprie possibilità di esprimersi professionalmente. Ma ognuno di voi, nella propria esperienza personale quotidiana, ha a che fare ogni giorno con un'infinità di macchine. Ma anche le più restie casalinghe a considerarsi vicine a quella che è la rivoluzione digitale sanno benissimo che gli oggetti con cui hanno familiarità quotidiana sono oggetti complicatissimi per una fetta di umanità che non li usa comunemente. Programmare una lavatrice, una lavapiatti ancora più difficile, capire qual è la giusta temperatura di un ferro da stiro per quel tipo di tessuto e tutta una serie di altri oggetti domestici, tecnologici, che in realtà sono degli strumenti che aiutano a velocizzare la giornata, aiutano a concepire nuove forme, nuove creatività anche semplicemente nella gestione domestica. Invece, al contrario, ci sono delle macchine meravigliose, bellissime, seducenti, ma totalmente inutili. Ne sono piene le televendite, ne sono piene i nostri cassetti, i nostri armadi, i nostri sgabuzzini, le scope elettriche, i robot semoventi, quelle macchinette che regalano prima o poi a tutti, che sono una sorta di piccola mola fresatrice elettrica per farsi le unghie, che in realtà servono soltanto a sentire quell'odore di ossa bruciate, di ustionarsi polpastrelli, o il terribile termometro digitale. In tutte le famiglie c'è il termometro digitale, non funziona mai. C'è un ragazzino con la febbre, metti il termometro digitale, ti fa 75, 10 e quindi ritorna il vecchio antico termometro rettale che perlomeno dà la giusta temperatura. Beh, oggi parleremo di macchine che ci hanno cambiato l'esistenza o che assolutamente, per quanto belle, per quanto decorative, non sono servite assolutamente a nulla. Un esercito di cuochi a casa tua con Bravo Simac Secondo. Una velocità diversa per ogni funzione. L'unico con lama affettatrice regolabile. E per fare tutte le ricette del mondo, il libro Tutto con Bravo Simac. Non credere che non abbia pensato a cosa cucinare questa sera, o meglio, ci ha pensato lui. Lui chi? Lui, 100 c***i, è il computer chef. Cucina per me tutti i piatti che voglio in qualsiasi momento. Questa mattina ho inserito tutti gli ingredienti a crudo nel cestello. Ho selezionato la modalità di cottura riso e ho programmato il timer esattamente per il nostro rientro. Ed ecco qua! Ma è fantastico! Uno dei tentativi più arraffazzonati e criminali di upgrade forzato di generazioni senescenti già con un piede alla tomba, lo osservai quando feci un'inchiesta sui venditori di pentole o di robot che caricano questi vecchietti nelle città, dai giardinetti, dai centri anziani, li portano con un autobus in un ristorante in disarmo, li tartassano con uno stress psicologico per alcune ore, costringendoli a comprare termocoperte, robot trita cibo per le loro gengive doloranti, oggetti per misurarsi la pressione, tutta tecnologia di cui non sapranno che farsi. Poi gli fanno fare un giretto di 10 minuti d'inverno sulla rotonda di Talamone, gli danno da mangiare un panino di gomma e una coscia di pollo ammuffita e li riportano a casa. Questo è un tentativo estremo di far credere che la tecnologia possa servire a prolungare la vita o a vivere meglio, ma è uno scellerato tentativo. Invece sono sicuro che nel vostro immaginario avete un'infinità di macchine che vi hanno veramente cambiato la vita e un altro mucchio di macchine che in realtà vi hanno soltanto riempito gli sgabuzzini. 800240024. Negli ultimi 2 anni ho cambiato casa, ho cambiato il servizio di piatti, ho cambiato la sveglia e anche tutta la cucina, ma non ho cambiato la mia Pippo. Forte, robusta, imbattibile, tutto passa, Pippo resta. Accendi il futuro con il robot aspirapolvere. È un rivoluzionario robot aspirapolvere che lavora da solo. Dotato di fotocamera, è in grado di pulire ogni tipo di pavimento. Il robot analizza la tua casa e ne crea una mappatura intelligente per pulire ogni ambiente, stabilendo il percorso migliore. Imposta l'ora tramite il pratico display digitale integrato. Deciderai così quando far partire le pulizie. Il robot pulirà per te, mentre tu ti dedichi... Devo dire che dal boom economico in poi il fatto che la tecnologia fosse un supporto formidabile a liberare dalla schiavitù secolare la donna che stava in cucina ha permesso comunque di svilupparsi una fantasia strepitosa nei costruttori di oggetti domestici. Ne faccio un altro esempio: il coltello elettrico. Ma io ricordo che l'unico uso appropriato del coltello elettrico mi sembra che abbia fatto Gérard Depardieu nel film L'ultima donna, quando nell'ultima scena si troncò radicalmente gli apparati virili. Non ho mai visto una famiglia usare il coltello elettrico. Chiunque abbia un coltello elettrico che gli regalano i bambini per casa lo disinnesca, stacca il filo, lo butta via, lo nasconde. Pensate cosa potrebbe fare un bambino con un coltello elettrico in mano. Potrebbe tagliuzzarvi casa, il gatto, il cane, voi stessi, le sue manine. Quindi il coltello elettrico, che serviva per alleviare dalla modesta fatica di affettare uno sfilatino di pane, in realtà è una cosa che non serve a nulla. La termocoperta. Io mi ricordo le prime termocoperte color rosa che ci si attaccava alla spina e c'era sempre una vecchia che rimaneva fulminata sotto, quindi servivano a fare l'arrostino di anziano in realtà, però le termocoperte l'hanno vendute in tanti mercatini. Non vorrei qui offendere nessun produttore di moderne termocoperte che saranno sicurissime, ma poi c'è un'infinità di altri oggetti totalmente utili e invece altri oggetti che in realtà veramente hanno probabilmente cambiato qualcosa nella percezione del mondo da parte degli esseri umani. Dice che il suo è il videogioco più bello del mondo. Sarà, però fa solo giochi. Io ho scoperto una bomba. Commodore VIC-20. Commodore VIC-20 fa di più, perché è un vero computer. Sa fare un sacco di videogiochi, tutti nuovi e divertenti. Ti insegna la lingua del futuro. Serve in casa. A scuola con lui diventi super. Oggi puoi scegliere il favoloso Commodore VIC-20 o l'incredibile Commodore 64. Con Amiga 500 l'immaginazione lavora, lavora, lavora. I primi PC ad uso domestico naturalmente sono state le macchine che realmente hanno cambiato alcune prospettive, hanno espanso, una volta connessi alla rete, quindi non soltanto il PC da solo, che in realtà era una macchina per scrivere, per fare giochini, per intrattenimento domestico, ma connessi alla rete hanno trasformato ogni essere umano in un terminale attivo verso altri esseri umani. Sono stata l'interfaccia giusta perché gli uomini riuscissero a uscire dalle loro angustie spazio-temporali e quindi si potessero espandere. Quindi sono tecnologie che comunque ci hanno notevolmente aiutato ad evolverci. Damiano, buongiorno. Buongiorno. Allora Damiano, già vedo la sua scheda, eviti di fare nomi di marche, se no mi faccio un sacco di nemici questa mattina. Realizzi e allucini l'oggetto che tanto noi capiamo. Ma i robot da cucina ci hanno veramente cambiato la vita. Io sono pochissimo a casa perché faccio l'autista, quindi ho bisogno di realizzare piatti in pochissimi minuti, quindi in 2 minuti riesco a fare, a impastare la pasta per il pane, riesco a crearmi... Lei vive solo, vive? No, sono sposato, però mia moglie magari lavora. E quindi non... avete questo meraviglioso robot che pensa lui alle cose di casa. Io normalmente, sì. Guardi, ognuno poi ha le sue esperienze. ho alternato nelle mie cucine, nelle varie epoche della mia vita, da quando ero figlio di mamma a quando sono figlio di moglie, una serie di oggetti che naturalmente avevano una vita molto breve, perché si compravano, si montavano, si usavano, ci si schizzava le mani e si tentava di fare poi alla fine ci si rompeva le scatole e passavano alla seconda casa, dalla seconda casa passavano a un cadeau, a una persona di servizio o a un amico o semplicemente al cassonetto. Idem vale per i forni a microonde. Io ho fatto settimane di trasmissione sul forno a microonde, che ancora occupa una posizione regale della mia cucina, ma nessuno usa. E poi l'altro oggetto qual è invece che gli ha cambiato la vita? Ma io credo che la lavastoviglie sicuramente. Beh, la lavastoviglie ci ha tolto dallo schifo di scrostare lo schifume altrui. E poi comunque credo anche che i nuovi giochi interattivi che ti fanno muovere invece di stare ore davanti. Sì, il console di videogioco che permette di slogarsi i polsi giocando a tennis e dando manate nell'aria, sa quanti vecchietti. Cioè, sono andati all'ospedale sotto Natale perché hanno provato a fare il golf estremo muovendo il bastone nell'aria nel loro salotto, in realtà sono fatti del male. Grazie, buongiorno Pino. Buongiorno, salve. Lei cosa le ha cambiato la vita? A me, cioè, la tecnica e la macchina è indispensabile sia per l'esercizio della mia professione che per... Cosa fa lei? Io faccio il medico, ma faccio il chirurgo in particolare, quindi non si può concepire questo tipo di professione senza l'utilizzo... Da quanti anni svolge questa professione, Pino? Da 6 anni. Ecco, in 6 anni già è possibile assistere a un'evoluzione nella sua maniera di lavorare, di operare professionalmente, sì, attraverso la tecnologia? Sì, sì. Anzi, l'evoluzione tecnica in medicina e in chirurgia è molto più veloce dell'evoluzione scientifica in termini proprio di conoscenze, di acquisizione di conoscenze. Noi diciamo per secoli, se non per millenni, abbiamo usato lame tagliente per aprire, ago e filo per chiudere. Poi da un certo punto della nostra evoluzione, quindi gli ultimi 30 anni, 40 anni, 50 anni, è tutto cambiato. No, si usano ancora lame taglienti e fili, però è cambiato ad esempio il concetto di usare lame taglienti e fili. Adesso esiste la chirurgia robotica, da pochi anni è stata introdotta il robot, il Da Vinci, che è un robot straordinario che consente al chirurgo di operare seduto davanti a una console. E l'intervento è molto più pulito di un intervento fatto. Che impressione fa sbudellare una persona seduta a una console? È una bella esperienza, penso. Non mette le mani in pasta, ma allo stesso maniera opera e salva una vita. Esatto, è proprio questo il concetto rivoluzionario. È molto più pulito l'intervento, si perde meno sangue, il paziente perde meno sangue, il rischio di infezione è minore perché non si apre, non si fa una ferita, un taglio, ma si fanno dei buchi come la laparoscopia. Quindi questo è il futuro. Il rischio di tutto ciò è che il chirurgo diventi inutile prima o poi. Lei dice basta un bravo operatore alla tastiera, servirà sempre una conoscenza fisiologica. Oppure in futuro magari si programmeranno le macchine per fare degli interventi e faranno tutto da soli. Vabbè, questo è lo stesso problema che si ponevano agli inizi di 2 secoli fa, quando vennero i primi telai a vapore. Cosa faranno? Chi costruirà più? Che fine farà la manodopera? Si riprodurrà in altre attività? Non possiamo porci questo tipo di problema. Grazie Pino, ancora Davide e poi passiamo a una sorpresa. Davide. Ciao Nicoletti, buongiorno a tutti. Macchine, descriva macchine. Ah, lei ha fatto l'autista? Ho fatto l'autista. Lei ha sulla coscienza, sa quante infelicità di anziani? No, allora, Nicoletti, io ti ascolto tutte le mattine. Mi sono introdotto in una di queste gite, furtivamente, e l'ho seguita tutta. È veramente un massacro di esseri umani. Allora ti diamo del lei, bene. Allora, ma è lo stesso, abbiamo più o meno la stessa età. Ma nessun problema, lavoravo in un'azienda di Pullman, caricavamo a Milano, tenga presente che però io non sono di Milano, sono della campagna del Polesine, caricavo a Milano in paesini che non conoscevo, si davano a botte per venire su nel Pullman, i primi giorni mi facevano pena, dico la verità, poi li portavamo a fargli il lavaggio del cervello, scusi se sono così crudo, in un ristorante. E poi c'era al pomeriggio la gita finiva in un qualche duomo, qualche monumento per 10 minuti, 20 minuti, Dopodiché li portavo indietro e li portavo a casa ed era la corsa per arrivare, ognuno voleva arrivare a casa prima degli altri. Allora i primi giorni mi facevano pena, poverini. Dopo una settimana li ho odiati ed ero contento se gli riuscivano a vendere quante più robe ciofeche possibili, perché non meritavano nulla. Ma non è cattiveria la mia, è proprio la constatazione di quanto, crudeltà mentale. Quanto il genere umano sia così stupido. Basta. Beh, io le auguro di non arrivare a 70 anni e considerare l'unica possibilità per uscire da una routine di assoluto isolamento qualcuno che la prende con un pullman, comunque le rivolge la parola e fare una gitarella, perché il vero, so che erano felici quegli anziani, ma non ho altra possibilità per uscire dal loro centro anziani, dalla loro cameretta, dalla catalessi costante davanti a un televisore. Si giocava sulla loro solitudine e gli si vendevano oggetti che si dava l'illusione che fossero tecnologie che le aiutassero nella loro condizione di anziani, quindi la termocoperta, i calzerotti elettrici, il trita bistecca per i denti. Erano cose terrificanti. Io, per me è stata una delle più infami operazioni di massacro psicologico. E poi non sono un tenero, io non mi intenerisco mai. Grazie comunque. Dunque, avevo promesso che avremmo avuto una sorpresa, l'abbiamo in questo momento. Da Londra abbiamo Stefano Moriggi. Stefano, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ecco, tu sei lì seriamente per valutare e considerare quali siano le macchine che hanno cambiato la vita o perlomeno hanno favorito l'evoluzione dell'essere umano. Come, perché, in quale circostanza, perché a Londra? Sono qui per motivi di ricerca, ma ho la fortuna di poter seguire un'interessantissima iniziativa lanciata dal direttore del British Museum, Nick McGregor, il quale ha deciso di selezionare 100 oggetti tra i 7 milioni contenuti nei magazzini della prestigiosa istituzione londinese che potessero scandire l'evoluzione dell'uomo. Cioè, sta scegliendo 100 oggetti che racconteranno quelle evoluzioni che ci ha reso umani così per come lo siamo, così per come siamo capaci. Ecco, ricordo che Stefano Moriggi, mi è sembrato superfluo dato la sua frequentazione frequentissima di questa missione, è un valente filosofo della scienza, oltre a essere amico mio, oltre a essere mio compagno di mille avventure intellettuali, che è andato per motivi di studio e approfondimento a Londra. Dunque, Stefano, c'è già una traccia di quale siano alcune di queste macchine? So che c'è una sorta di segreto, di concorso, lo diranno all'ultimo qual è la macchina più importante di tutte, ma di queste 100 che stanno selezionando, ce n'è già qualcuna che tu puoi descrivere o raccontare? Il segreto è assoluto sull'ultima, anche perché il direttore si riserva di comunicarla alla fine, potrebbe cambiare da un momento all'altro, l'evoluzione ormai ha una rapidità tale per cui svelarla ora sarebbe probabilmente un'anticipazione indebita. Qualche anticipazione arriva dalle pagine del Sunday Times, pare che il numero 99, quindi la penultima puntata di questa grande rassegna, sarebbe la carta di credito, quindi dai più rudimentari strumenti che hanno consentito all'uomo di scolpire le prime pietre e di adattarsi nel migliore dei modi più possibile rispetto a un ambiente aggressivo, si sarebbe arrivati alla sottile carta di credito con cui lo stesso concetto di cittadinanza ed economia sarebbe stata cambiata e modificata in modo virtuale, rapido, veloce. E insomma, quella che raccoglie McGregor, cioè il direttore del museo, è l'antica sfida di Bacone. Questa domanda se l'era già posta nel 600 il grande filosofo della scienza e della tecnologia che era Bacone, quando con una battuta che rimase nella storia disse: più che tutta l'opera di Aristotele, il mondo è cambiato ed sarà cambiato da tre grandi invenzioni: la bussola, la stampa e la polvere da sparo. Dovremmo cominciare di nuovo a riprendere la grande sfida di Bacone e capire quali tecnologie ci consentiranno di essere, di dirci umani, sia dal punto di vista etico, sia dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista meramente evolutivo. Noi non possiamo essere e dirci umani indipendentemente dalle tecnologie, dagli strumenti pratici, concreti, ma anche intellettuali con cui di giorno in giorno decliniamo la nostra esistenza e le nostre relazioni. Allora Stefano, ci interrompiamo un attimo per dare la linea alle informazioni della borsa. Tu, stando a Londra, naturalmente l'avrai di prima mano e ci sentiamo fra un istante. Intanto dico a chi ci ascolta, ci sta già segnalando dai più strampalati oggetti. Jacopo mi dice che il tagliacapelli elettrico è stata per lui la grande invenzione, non devi più andare dal barbiere, ma poi molti insistono sui computer di prima generazione, che hanno creato veramente un discrimine radicale rispetto alle forme tradizionali dell'intrattenimento, della comunicazione e quello che oggi è naturalmente la nostra interconnessione costante. Melog 2.0. I think it'd probably be the phone, wouldn't it? It's like direi senza dubbio il telefono. Ti permette di comunicare. E comunque è la prima cosa che mi è venuta in mente. Mobile phone changed everything. È il cellulare, ha cambiato tutto. Ci permette di essere puntuali o di essere sempre in ritardo, perché tanto ti puoi sempre accordare all'ultimo. Anche per come ci rapportiamo con i bambini. Io uso molto il mio computer portatile per lavorare e comunicare. Quindi direi senz'altro il computer. Direi il cellulare, che ha cambiato il modo di comunicare e ci ha reso più virtuali. Visto che mi state intervistando con quello che mi sembra un iPod, e dato che io ne sto ascoltando uno, direi proprio l'iPod, che direi rappresenta bene l'inizio degli anni 10 del XXI secolo. Stiamo parlando delle tecnologie che hanno aiutato, favorito, accompagnato l'evoluzione dell'essere umano. Queste sono voci che ha colto Stefano Moringi a Londra, ma per dimostrare la versalità e la possibilità di espandersi le tecnologie, Stefano Moringi con il suo palmare portatile si è fotografato, ha già messo su Facebook la sua foto, già la sua foto è apparsa sul mio profilo, già qualcuno sta dicendo Moringi a Londra, che bella sciarpetta fighetta. Stefano Moringi da Londra. Eccomi. Allora Stefano, io ti dico alcune reazioni che leggo proprio nel mio profilo Facebook dove tu stai campeggiando per dimostrare la circolarità delle tecnologie. Sì. Alcune signore stanno sottolineando la differenza di percezione fra maschi e femmine di tecnologie essenziali. Noi abbiamo sentito alcune telefonate, uomini impazziti per il robot da cucina perché gli facilita alcune funzioni improprie per cultura al loro genere, ma in particolare sono delle cose a cui un uomo non pensa. Chiara scrive: il phone è l'assorbente interno, quando ero giovane promessa del nuoto, poi il microonde da giovane madre lavoratrice, il cellulare da vecchia madre di figli in giro per il mondo, alcuni presidi tipicamente femminili. Poi Daniela dice i collan. Molti non saranno d'accordo, ma in effetti hanno notevolmente velocizzato la funzione del vestirsi e del coprirsi, del mettersi le cose addosso alle donne. Sara dice la pillola anticoncezionale, comunque la possibilità comunque di poter porre un controllo sulle capacità riproduttive delle persone, poi ognuno fa le sue scelte a seconda del punto di vista, della visione della vita, della concezione religiosa, però il fatto che comunque il ciclo della natura possa essere dall'uomo controllato sono sempre passi avanti. È questa tecnologia? Sì, è anche questa. Nel caso dei maschi, i robot da cucina sicuramente hanno contribuito a colmare una serie di competenze tra i fornelli che diversamente erano appannaggio delle sapienti mani femminili. Più interessante mi sembra il caso della pillola che mi sottoponi, perché la pillola, come tu giustamente dici, non solo altera i cosiddetti ritmi naturali del corpo, ma nell'alterazione produce una separazione tra un vincolo che alcuni vorrebbero naturale e inviolabile, cioè quello tra sessualità e riproduzione, separazione su cui si sono giocati molti dei diritti delle donne, una modificazione del fisico che ha trasformato il modo di essere donna e di vivere i propri diritti. Non ultimo mi citi il collant. Il collant ha trasfigurato nell'immaginario, ma anche nella percezione visiva, la gamba della donna, trasformando un arto in un tratto sensuale che ha abitato e continua a abitare la gran parte dell'immaginario maschile. Il corpo diventa carne quanto è trasfigurato da un significato. La tecnologia questo fa, riscrive i significati del nostro corpo, i modi di vivere, di percepirla e di cambiare profondamente il nostro modo di narrare il mondo, narrazione della quale siamo i involontari protagonisti. Sentiamo Nicola. Nicola, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma io volevo parlarvi di come a me la tecnologia dei navigatori satellitari mi ha cambiato la vita, perché per lavoro trasporto persone e quando iniziai nel 95 io faccio un noleggio con conducente e per esempio saliva in macchina e a cartina alla mano si andava. Adesso con i navigatori non ci si perde, si va in ogni luogo, sempre, come dire, osservati dall'alto e teleguidati. Ha tolto un bel po' di emozionalità a quello che faccio, perché comunque alla fine è quasi scontato e mi sento un po' messo da parte, però dal punto di vista pratico è stato un bel passo in avanti. Guardi, farò una confessione di quelle che poi segano le gambe. A me ha creato problemi in famiglia. A essere messa da parte era la persona che normalmente negli spostamenti mi faceva da navigatore umano, e quando ho cominciato a sentire quella voce femminile che frapponeva la sua, cominciò a dire: ma questa sbaglia, che ne sa, stacca questa stronza. Però in realtà era necessaria nell'evoluzione anche della serenità familiare che entrasse fra me e mia moglie anche il navigatore satellitare. Furio, buongiorno. Buongiorno. No, la dimensione che mi ha cambiato la vita è stare il computer, nel senso che, appunto, parlando di mogli, mia moglie dice: saprò quando sei morto, sei sparito, ti hanno rapito, quando vedrò il computer spento in casa, perché il computer è acceso quando sono in casa e anche spesso quando... Sì, la frase: sei sempre davanti a quel computer. Qualche volta hanno ragione, sia sincero, sì, Furio. Sì. La fuga domestica telematica è una pratica che nessuno ha poi disdegnato in maniera così radicale, quindi... Puzza di bruciato la sentono qualche volta, lei non finga che sta davanti al computer per lavorare, fare calcoli, mandare email ai colleghi. In realtà mi fa accompagnare mia moglie, nel senso che anche lei è attaccata al computer meno di me. Ma la cosa che volevo sottolineare, che secondo me è fondamentale, è il fatto che ha reso molto economiche tante attività diverse con la sua flessibilità. Fare radio, fare video e permettersi di fare anche del cinema indipendente o della radio indipendente prima era lasciato veramente a tanto impegno e a troppa passione, perché con i mezzi di un tempo gestire una radio a termini economici, di tempo, verissimo, di competenze, era molto più complicato. Adesso, ha detto una cosa molto giusta, di esprimersi, sì. Sì. No, dicevo, la possibilità di esprimersi attraverso attività come la cinematografia, l'espressione radiofonica, il montaggio. Una volta occorreva, era necessario avere una filiera di lavorazione costosissima, professionale. Oggi chiunque a casa può confezionare un prodotto audiovisivo con delle caratteristiche di buona e media professionalità, se non alta professionalità. È cambiato notevolmente. Io che ho iniziato a fare la radio nell'83 in maniera totalmente analogica, tagliando ancora il nastro fisicamente con la taglierina, e per anni ho fatto servizi portandomi dietro un registratore a nastri e montavo tagliando il nastro con la taglierina e incollandolo con uno scotch adesivo. Veniva benissimo, ma è un'operazione che mi fa sentire vecchio. Oggi mio figlio può fare esattamente la stessa cosa con un oggetto di pochi centimetri di spessore. Franco. Sì. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Cosa le ha cambiato la vita, lei? Mi ha cambiato perché inizialmente avevo una banca online che sinceramente mi ha fatto capire che poi il mondo bancario, gli investimenti... Cioè ha fatta piangere e amare lacrime. E mi ha fatto risparmiare un sacco di soldi. E poi ho avuto un'assicurazione online e poi ho avuto un po' la pazza idea all'età di 35 anni di fare anche un'università online. E sono stato sempre un secchione della vita, però per motivi di lavoro non feci l'università, ma c'avevo sempre questo sogno nel cassetto. E quindi se non ha fatto l'università, ha fatto l'università. Ah, come allievo, cioè si è preso una laurea online. Mi sto prendendo una laurea online. Ah. E mentre la stavo ascoltando, stavo studiando in questo momento, nonostante la famiglia, i figli, grazie anche a dei turni, ho la possibilità la mattina di quindi, stare solo. Come vede, la tecnologia espande il nostro tempo dandoci possibilità di stratificare vari tempi sul tempo tradizionale e fare tante cose assieme. Poi vorrei fare una piccola inversione di rotta e sentire al telefono Nicola Nosengo. Nicola, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Nicola è un giornalista scientifico, ha scritto L'estinzione dei tecnosauri, storie e tecnologie che non ce l'hanno fatta, Sironi Edizione. Tu stai, dopo aver pubblicato i tuoi libri, stai ancora osservando, noi abbiamo citato alcune macchine futili, tecnologie che sono partite con una grande squillar di trombe, ma via via si perdono per strada, vanno nel cimitero degli elefanti tecnologici. Sì, certo, naturalmente gli esempi si sprecano. Un'iniziativa come quella del British Museum che ci ha raccontato Stefano da Londra dovrebbe raccontare anche l'altro lato e dovrebbe raccontare le molte tecnologie che hanno promesso di cambiarci la vita e non lo hanno fatto. Ne abbiamo molti esempi, direi in particolare nel XX secolo, che è stato questo che ha visto questo grande florilegio di nuove tecnologie. Io nel libro raccontavo della posta pneumatica, questo sistema di distribuzione della posta che per molti versi l'antenato di internet. Ma come mai, scusami, io che ho 50 anni ricordo di averla vista la posta pneumatica nei giornali fino a mi sembra fino a ieri, cose del genere. Ancora esisteva? Ancora esiste in alcuni edifici, la usano alcuni ospedali, la usano alcuni supermercati per mandare i soldi, corrispondenza sì. Interna, ma all'inizio del XX secolo si pensava che diventasse come la rete del gas, come la rete dell'elettricità, qualcosa che doveva arrivare in ogni casa, attraversare grandi distanze ed eliminare per sempre i postini. Invece, come sappiamo, questo non è successo. Ci sono poi anche molti ruderi tecnologici che ci portiamo dietro e di cui penso molti di noi non vedono l'ora di liberarsi. Un esempio è il fax, tecnologia francamente obsoleta, francamente scomoda, resa inutile dallo sviluppo. Ma pensa che ancora per alcune operazioni chiedono deve mandarci un fax, come mando un'email con un allegato, no, deve mandarci un fax. Esattamente, non c'è nessuna motivazione tecnologica per sopportare i fogli inceppati, il numero occupato, il calvario a cui ci sottopone il fax quotidianamente, eppure ancora siamo costretti a farlo. Detto questo, naturalmente le tecnologie anche che sembrano fallite poi possono sorprenderci. Fino a non molto tempo fa avrei relegato tra queste promesse non mantenute il cinema 3D, gli occhialini 3D, quello che vediamo in questi giorni con il noto film di Cameron ci fa pensare che forse... Io mi prenderei un attimo di pausa di riflessione, perché io sono stato 3 ore davanti al film di Cameron, sera, ma ebbi problemi di notevoli poi dopo di riacquisto del mio assetto e del mio visus. Penso che sia un bel gadget, divertente tutto, secondo me però ancora occorre fare un po' di strada perché il 3D diventi una forma di intrattenimento accettabile, non lo so, non sei d'accordo? Sì, io penso che coesisterà probabilmente pacificamente come, diciamo, tecnologia di nicchia accanto al buon vecchio cinema 2D. Certo, io mi ricordo quando avevo appena 14 anni che in Italia arrivarono le avventure sessuali di Helga in 3D. Tutti corremmo con quegli occhialetti rossi e verdi e non si vedeva assolutamente nulla. Solo in alcune scene, le scene più calde di Helga in 3D, mettevamo tutti gli occhialini per vedere le chiappe di questa attrice tridimensionale, ma era molto limitato l'effetto. Però ecco, ascoltando il resto della trasmissione volevo fare una considerazione un po' più generale, partendo anche da quello che dicevi tu all'inizio. Allora senti, posso chiederti una gentilezza? Sospendi un attimo la tua considerazione, la farai fra un istante. Melog 2.0. Ah, Roberto. Pronto? Marco? Scusa, non ce la faccio essere lì tra un quarto d'ora, c'è troppo traffico. Sono in ritardo anch'io, sono ancora a Piazza Mazzini. Piazza Mazzini? Pronto? Marco? Pronto? Autotelefoni SIP. Comunicare in movimento. Telefonateci al 187. Corre voce che i telefoni mobili Mitsubishi siano leggeri, compatti e affidabili. Corre voce che si usino dappertutto. Telefoni mobili Mitsubishi. Corre voce ovunque. Guardate che differenza fra le prime pubblicità dei telefoni e quelle attuali. Nelle prime pubblicità dei telefoni, a differenza di quelle di oggi, veniva esaltato il fatto che si potesse parlare a distanza, delocalizzati, lontani dalla propria abitazione, ci fosse proprio un terminale individuale. Oggi viene dato per scontato che il telefono è uno strumento per comunicare, è tutto mirato sulla offerta, sulla metodologia, su quanto convenga, quale sia la maniera migliore per telefonare spendendo meno. Mi ero interrotto nella parte precedente della trasmissione con Nicola Nosengo, che è un giornalista scientifico che si occupa di tecnologie estinte, quelle che non ce l'hanno fatta, poverine, quelle che l'evoluzione della specie delle macchine ha costretto a estinguersi come dinosauri. Nicola, cosa stavi dicendo? Stavo dicendo, appunto, ribaltando, se vuoi, guardando in negativo l'argomento del mio libro che hai appena citato, alla fine le tecnologie che veramente ci hanno trasformato la vita come specie umana e che dicono più di ciò che siamo come esseri umani, sono proprio quelle che non cambiano da millenni, quelle di cui non ci accorgiamo più. Una storia dell'essere umano attraverso le tecnologie, come quella che stanno facendo a Londra, dovrebbe partire probabilmente da le sedie, le porte, i tavoli, i bottoni, tecnologie che nemmeno definiamo più tali, che non cambiano da millenni e che quindi sono quelle di maggior successo, proprio come nell'evoluzione biologica. In fondo, chi ha avuto veramente successo nell'evoluzione delle specie? Quegli animali come gli insetti o i parassiti, rettili, l'abbiamo già detto. Esatto, che sono immutati da millenni, mentre noi crediamo di essere i più evoluti perché siamo in continua trasformazione. In fondo è quello che dicevi anche tu all'inizio, parlando degli odiosi coltelli elettrici. Io ci aggiungo lo spazzolino elettrico, è già vero, inutilissimo, che trovo assolutamente diabolica. No, perché si intasa tutto di quella sorta di tartaro dentifriciato e fa schifo, un po' lo butti via. Esatto, sono tentativi di far evolvere tecnologie che non hanno nessun bisogno di evolvere e che invece dicono veramente ciò che siamo. La sedia, per dirne una, dice che siamo una specie che alla stazione retta non si è ancora così abituata come vorrebbe. I bottoni dicono che siamo una specie con un pollice opponibile molto utile che permette di fare molte cose interessanti. Ecco, forse dovremmo abituarci a usare il termine tecnologia non soltanto per l'ultimo gadget che poi spesso dopo 5 anni si rivela inutile, ma per quelle cose che ormai non vediamo più, che ci accompagnano veramente. Ma tu pensa alla zip e le cerniere lampe. Ah, fantastiche, esatto. Io da piccolo avevo sempre dei grossi incidenti castratori, però dopo che uno ha imparato a usarle sono utilissime. Ti ringrazio Nicola, però visto che tu hai citato l'evoluzione, io vorrei chiamare in causa una signora, si trova anche lei a Londra in questo momento, che probabilmente voi conoscete, Chiara Ceci. Chiara Ceci, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Chiara Ceci è naturalista, coordinatrice scientifica della mostra dedicata a Darwin, che attualmente si svolge a Bari. Tu sei esperta darwiniana, anzi specializzata in Emma Darwin, la moglie del grande teorico dell'evoluzione. Cosa hai da dire rispetto a questo rapporto tra esseri umani e macchine, l'evoluzione delle macchine, l'evoluzione degli esseri umani, e soprattutto in quanto donna esiste una differenza di percezione delle macchine utili e delle macchine indispensabili tra uomini e donne? Sì, guarda, tu citavi Emma, se penso a lei, a tutte le donne della sua epoca, quindi dell'epoca vittoriana, possiamo pensare a quello che si sono perse. Penso alla sua vita con 10 figli, prima tu parlavi della pillola anticoncezionale, loro questa fortuna diciamo non l'avevano, oppure nella gestione della casa. Era come un mandrillo con... Darwin maschio, sì. Praticamente. Lo so. E si è persa anche tutte le macchine per la gestione della casa nella vita quotidiana, quindi il frullatore, il frigorifero, tutte queste cose che, come diceva giustamente anche Nicola, diamo per scontato. E poi i Darwin, vivevano in una società, quella vittoriana, che è stata portatrice di tante tecnologie. Tu parlavi della zip. La zip è una tecnologia che nasce in quel periodo, come tutti i trasporti. Oggi qui a Londra mi sono mossa con mezzi super tecnologici, metropolitane, stanno facendo anche in vista delle Olimpiadi un sacco di lavori, però 150 anni fa, 200 anni fa, Londra non era così come non era così tutto. Per quanto riguarda la visione diciamo delle donne, le macchine che ritengo indispensabili, io mi ritengo una abbastanza tecnologica, nel senso che come sono appassionata dell'ultimo gadget, ecco, da quel punto di vista sì, però devo dire che la più grande soddisfazione per me è stata insegnare a mia nonna a scrivere un SMS, quindi mia nonna è padrona della tecnologia cellulare e è veramente efficace. Poi sono sempre stato convinto che le donne, mi si passi questo discorso, potrebbe sembrare oscurantista e maschilista, hanno in realtà un'attitudine molto più spiccata alla tecnologia. Le nostre nonne in casa erano le persone più adatte a fare certi lavori di riparazione tecnologico-domestica, che i nostri nonni mai avrebbero preso in mano una chiave inglese. Invece loro si arrangiavano, in fondo il tubo del lavandino riuscivano a sturarselo per conto loro. Poi l'uso delle prime macchine domestiche, dei primi elettrodomestici, studiare il programma di una lavatrice quando ancora hanno delle schede di plastica che si infilavano dentro, ha fatto sì che ci fosse un'attitudine spiccata femminile nel controllo delle macchine. Sentiamo Marco. Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Credo che sia difficile dopo gli ultimi due interventi dire qualche cosa di interessante o simpatico. Perché? Però ugualmente si può sempre migliorare. Mi sono sembrati degli interventi molto molto interessanti. Comunque, Le ha cambiato la vita a lei? A me l'Xbox. L'Xbox perché mi sono trasferito all'età di 40 anni in una città diversa dalla mia di origine, dove non conosco nessuno e dove soprattutto a quest'età è difficile fare nuove amicizie. Per cui per passare un po' di tempo libero tranquillo mi sono comprato questo oggetto che ho scoperto poi con il gioco live mi permette di restare in contatto con amici e di creare anche nuove conoscenze. Ragazzino... Grazie Marco, la devo segare. Roberto, lei dice una cosa che mi tocca profondamente avendo io fra 20 minuti l'appuntamento con il dentista. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. No, io ho ascoltato con attenzione le interventi precedenti, ci sono anche sono navigatore col camper, mi ha portato in posti dove ho dovuto chiamare un carro attrezzi per uscire. Però lei fa una domanda precisa sull'anestesia. L'invenzione che ritengo più utile sarà sicuramente l'anestesia, il dentista, perché voglio dire, adesso sto mettendomi una protesi, ho trovato uno studio che non mi accorgo neanche di essere sotto dentista e immagino le sofferenze di chi gli hanno estratto pallottole, tagliato gambe e mettendogli solo un fazzoletto soltanto con la bottiglia del cordiale e mettendogli qualcosa fra i denti, come Maroncelli nelle mie prigioni. Silvio Pellico poi regalava una rosa al chirurgo che gli aveva amputato la gamba. Stefano Morigi, segate Roberto. Stefano Morigi, eccomi. Chiudiamo. Roberto dice giustamente che l'anestesia è stata una, secondo lui, delle invenzioni più importanti. Sicuramente ha cambiato la storia della medicina. Beh, torniamo anche sempre però nel controllo della carne umana alla fine. Il controllo della carne umana ha cambiato anche la cultura e la percezione stessa del dolore. Una sola battuta su quello che diceva Nosengo che è molto interessante. È vero, molte tecnologie non ce l'hanno fatta. Non confondiamo però, come non Nosengo ma molti altri fanno, l'idea di progresso con quella di evoluzione. Le macchine evolvono e l'estinzione è parte dell'evoluzione. Il progresso è un'altra cosa, è una categoria sociologica, dal mio punto di vista, molto meno descrittiva di quella dell'evoluzione in ambito biologico e in ambito culturale, di tutte queste dinamiche che raccontano la storia della nostra umanità. Grazie Stefano Morigi, grazie Chiara Ceci, grazie Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, ci sentiamo la prossima settimana. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.